Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Naturalmente se scaricate la app apposita dal nostro sito radiocittafujiko.it potete tranquillamente, appunto, una volta scaricata la app, ascoltarci in tutto il mondo tramite tutti i devices che preferite. Mercoledì 10.30 è l'inizio di un paio di ore di musica dal vivo, appunto denominate Città Fujiko Live Club, che si propone di farvi ascoltare musica di tutti i generi e di tutte le epoche. Come avete potuto sentire dalla mia voce, non è che sia brillantissimo oggi. Una sorta di raffreddore, che poi raffreddore non è, mi sta colpendo, ma vediamo di portare alla fine anche questo paio di ore di musica dal vivo, per cui poche chiacchiere oggi e molta molta musica. E come sempre all'inizio di Città Fujiko Live Club arriva una novità, che è quella che vi propongo in ogni trasmissione più o meno. Oggi è una novità veramente molto molto bella, molto importante, ad opera di un gruppo che ho già fatto ascoltare tante volte, perché è un gruppo che amo tantissimo, e devo dire che una volta tanto ci ho preso, nel senso che questo gruppo ha cominciato a piacermi sin dal primo album, che si chiama Shake Your Money Maker. Album che è stato riproposto in occasione del 30° anniversario in una edizione di 3 CD, esattamente nel 1991, nel febbraio del 1991 fu pubblicato. Però, come sapete tutti, a causa del Covid il tour seguente non poté essere effettuato, per cui è stato rimandato fino al 2022, che ha portato in giro la riproposizione integrale di Shake Your Money Maker, con aggiunti qualche brano sul finale del set, e che è stato immortalato adesso in questo momento, in questi giorni, da un album che, guarda caso, si chiama Shake Your Money Maker Live. Sono i fratelli Robinson, Chris alla voce, Rich alla chitarra e alla voce, che arrivano da Marietta, nei dintorni di Atlanta, che nel 1984 fondarono i Black Crowes, che poi sono arrivati fino ad oggi insieme a noi, ma con diverse stop, diversi breaks, diverse interruzioni, perché i due fratelli sono molto litigiosi, si attaccano abbastanza spesso, anche fisicamente, e per cui tutte le volte che c'è una diatriba, uno scontro, come dicevo, anche fisico, la band si scioglie. Poi alla fine, quando il portafoglio, il conto in banca dei due fratelli va in rosso, si riuniscono perché quando sono insieme sono veramente una grande band. È un doppio CD quello che vi propongo oggi, che contiene appunto tutto Shake Your Money Maker, l'album d'esordio della band, che fu pubblicato originariamente nel febbraio del 1990, e che poi alla fine ci sono anche inframmezzato da alcune covers, e alla fine ce ne sono due fantastiche, ma di questo ne parleremo dopo. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Ho detto poche chiacchiere e molta musica, mi sono già rimangiato la parola perché ho già parlato anche troppo. Black Crowes, andiamo a vedere come inizia questo album, come iniziava anche il concerto del tour apposito Twice as Hard. Attorno ai fratelli Robinson hanno circolato fior fiore di musicisti e sono sempre stati fautori di un suono molto molto potente che, come avete potuto sentire in questa Twice as Hard, è molto coinvolgente, almeno per quel che mi riguarda. E Black Rose, come dicevo, sono famosi in tutto il mondo, giustamente, anche grazie a una serie di tour veramente infinita quando sono insieme. Poi dopo, quando la band si divide, i due fratelli si dividono, è un altro discorso. Comunque, visto che parliamo di fratelli, è abbastanza automatico che la prima parte di questa trasmissione di oggi, 12 aprile 2023, sarà dedicata a bands che hanno al proprio interno fratelli. Nello specifico oggi due fratelli, perché ci sono anche molte bands che ne hanno tre e chi addirittura quattro. Comunque oggi due, e come, siccome non è la prima volta che faccio ascoltare fratelli in musica, mi piace sempre iniziare con band italiane. Ce ne sono diverse, adesso ce ne ascolteremo in particolare tre. Ad iniziare da una band che viene da Pesaro, che è una band fantastica, è capitanata dai fratelli Diamantini. Marco è il cantante e chitarrista, suona anche l'armonica, e Michele è la chitarra solista. Vengono da Pesaro, dicevo, sono insieme dal 1990 e sono sempre stati autonomi, sempre autoprodotti, sempre pubblicato album nella loro casa discografica personale. Sono veramente ammirevoli e da ammirare, da ascoltare e da godere. Qui abbiamo un album, il loro secondo album live, si chiama Mary and the Fairy, che è stato pubblicato dopo un altro album doppio live che si chiamava Stay Alive, che sono completamente diversi. Il primo era molto rock, con anche una cover di Bruce Springsteen, uno di Neil Young. Questo è molto tranquillo, molto intimo, molto basato anche sul suono del pianoforte. È stato registrato in casa, diciamo così, al Teatro Sperimentale di Pesaro il 30 aprile del 2015. Cheap Wine, ce l'andiamo ad ascoltare in un brano che si chiama Based on Lies. You know, it was a bad, bad thief. the power play. The faint is always swept away. Come on, fill my bag with gold, and then lay down on the floor. I take back what you stole away. Sometimes the hunter becomes prey. I said goodbye, I went outside. I saw the junk and I gave him a dime. My soul man and Mr. Hyde. So hey baby, it's all day until the boss said you're fired and I sank into the night. I met the devil on the way. He said use your head and make them pay. A revolution can be kind, so don't stop and cross that line. Salve. il vento, calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fine che risiamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fine che risiamo. Sempre molto agitati, i fratelli Severini vengono da Filottrano, provincia di Ancona, quindi siamo ancora nelle Marche, da dove siamo partiti insieme ai Chap Trick. Loro sono insieme dal 1984, Sandro è cantante, suona la chitarra, suo fratello Marino suona la chitarra solista, e insieme naturalmente si fanno chiamare Gang, questo lo sapete, e in questo album che si chiama Le radici e le ali, 20 anni dal vivo, hanno riproposto anche questa che non ho nessun timore a definire una canzone popolare italiana, si chiama Fischia il vento. 4 stelle sul cappello sono quelle che i tuoi pensieri fanno brillare. Scendiamo dalle Marche, andiamo nel Lazio, da Marino, provincia di Roma, arriva tuttora il banco, anche se in realtà i due fratelli Innocenzi, Vittorio alle tastiere, alla voce, Gianni al piano, sono stati nella band insieme fino al 1984, dal 1968. Vittorio poi prosegue tuttora, malgrado un grosso problema di salute che ha avuto, però continua tuttora, e malgrado anche la morte di Francesco Di Giacomo, continua tuttora, dicevo, come banco del mutuo soccorso in giro per l'Italia. Hanno fatto un album anche recentemente, che naturalmente non è niente male. Qui però siamo nel 1979, novembre per la precisione, 28 e 29, in trasferta per loro a Milano, al Capolinea, uno dei locali storici della città meneghina, e niente, fra le altre cose ci sono diversi motivi per sperare che questo album sia ripubblicato prossimamente, magari in versione allargata sicuramente. Andiamo ad ascoltarcelo. Loro sono Banco del Mutuo Soccorso, e il pezzo, uno dei loro pezzi più famosi, si chiama Il Ragno. questo filo. Contrariamente a quanto si possa pensare, quello che abbiamo ascoltato adesso, la voce che abbiamo ascoltato, non è quella di un afroamericano dedito al soul e rhythm and blues, ma è quella di uno slavato australiano dedito al soul e rhythm and blues di nome Josh, che oltre a cantare suona anche la chitarra, e insieme al fratello Sam, che suona la chitarra, formano i Teskey Brothers, appunto Josh e Sam Teskey. Come dicevo, vengono da Melbourne, e a Melbourne è stato registrato questo album insieme ad un'orchestra, l'Orchestra Victoria, si chiama Hammer Hall, la venue in cui è stato registrato questo album, il 22 dicembre del 2020, e infatti ci sono anche un paio di canzoni natalizie che faranno buono per più avanti, diciamo, verso appunto il periodo natalizio. Oh, you, my friend. Rimaniamo al di fuori delle solite cose inglesi e americane e andiamo in Olanda. Una band che a me piace molto, che vi ho già fatto ascoltare diverse volte, e che fra l'altro aprivano i concerti europei dei Black Crowes. Sono due fratelli e un amico. Si chiamano The Wolf come band. Non so perché in questo modo, perché loro invece si chiamano Van de Poel. Luca suona la batteria e Pablo canta e suona la chitarra, e l'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Live and Not a Sight 2, perché ne sono usciti due a distanza di qualche anno uno dall'altro, ed è stato registrato nel dicembre del 2018. Il brano che ho scelto per voi parla della luna, si chiama Sugar Moon, loro sono The Wolf. Do when you got lonesome? Oh, E questi erano i fratelli Gizzy, ma no, non siamo tornati in Italia, siamo a Glasgow, Gran Bretagna, dove sono nati e cresciuti Dante, il cantante, e Giuliano, detto Jules, il chitarrista, che nel 1987 fondarono i Gunn, che è la band che ci siamo ascoltata, capitanata appunto da questi due musicisti di chiara origine italiana. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Something to Believe In. A concludere questa piccolissima rassegna dedicata a band con fratelli all'interno, arrivano i fratelli Butler, esattamente Richard il cantante, una voce incredibile, e Tim il bassista. Loro fanno parte da sempre, hanno fondato una band fantastica, purtroppo più o meno sconosciuta, che si chiama Psychedelic Force. Sono stati attivi dal 97 e dall'87, scusate, dal 77 al 1992, e sono poi riformati nel 2000 fino ad oggi. È una grande band, come vi dicevo. Questo album è stato registrato all'House of Blues di Los Angeles il 7 aprile del 2001. Andiamo a ascoltare uno dei tanti bei pezzi che la band ha fatto. Questo in particolare si chiama Pretty in Pink e conclude la prima parte di Città Fujiko Live Club di oggi. To be one of the girls. She lives in a place in the side of our lives where nothing is ever put straight. She turns herself around and she smiles and she says, this is it, that's the end of the joke. And loses herself in her dreaming and sleep, and her lovers walk through in their coaches. Pretty in pink. Isn't she pretty in pink? Isn't she? All of the lovers all talk of the notes and the flowers that they never sent. And wasn't she easy? Isn't she pretty in pink? The one who insists he was first in the line is the last to remember. Walking around in this dress that she wore, she's gone for the jokes to say. Pretty in pink, isn't she? Pretty in pink, isn't she? Sometimes she says I love you and too much. She doesn't have anything you want to steal. Well, nothing you can touch. She waves. She buns your shirt. The traffic is waiting outside. She hands you this coat. She gives you her clothes. These cards collide. Pretty in pink. Isn't she pretty in pink? Isn't she? are worn and other kinds of uniform. Kitty, you are really free like individuality. You are what you want to be. Until tomorrow, the driveway's broken, the doorbell says it's chimes. The time we've won for who? God knows why. It's like this vicious drug. And I cause of mama, I'm so out to handle now, just a man. The colonel calls her mama, I'll show out your handle now, yes sir. Hey! Oh yeah! Baby, here I am, and I'm the man on the scene. I'll give you what you want, you got to bring it home to me. As I'm going on low, got a little more in show. Get the paper throwing it on, you know you'll be around for more. Let me light your candle, cause of mama, I'm so wide your handle now, yes I am. Seconda parte di Città Fujiko Live Club del 12 aprile 2023, seconda parte che è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi, un doppio album che si chiama Shake Your Money Maker Live da parte di Black Crowes, che ripropongono integralmente Start to Finish, come si suol dire, il loro album d'esordio, album che ha portato tantissima fortuna alla band, soprattutto con questo singolo, una versione molto particolare, molto hard, appunto, di Hard to Handle, un classico di Otis Redding che loro hanno fatto alla loro maniera, pubblicato come singolo e ha avuto un sacco di successo. C'è un piccolo problema con questo doppio album, che non si sa dove siano stati registrati i pezzi, e questo è molto molto molto grave per quel che mi riguarda, ma la bellezza di questo doppio album va oltre a queste notizie, perché la musica è veramente grandiosa. Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Record Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna. Mi ripeto ancora una volta, tantissimi brani registrati in questo 12 aprile nel corso degli anni, e ancora una volta il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. E oggi ne abbiamo 6, per cui iniziamo subito dal 1968. Ci trasferiamo, armi e bagagli, al Winterland di San Francisco, dove di scena abbiamo Big Brothers and Holding Company. Questo album, che è stato pubblicato postumo dopo la morte di Janis Joplin, è però accreditato a lei, nel senso che è accreditato a Janis Joplin and with, anzi, Big Brother and the Holding Company. È un piccolo diciamo una piccola trasfigurazione di quella che era la realtà, ma c'è il dubbio che Janis Joplin abbia raggiunto livelli di fama che Big Brothers and the Holding Co. non abbiano mai neanche lontanamente sognato. Ci andiamo ad ascoltare uno dei classici di questa grandissima cantante, per me la più grande di tutti. Lei si chiama Janis Joplin e il pezzo invece che si chiama Piece of My Heart. Five very, very nice people, one great big talent, Big Brother. And the only one. Thank you very much. Sorry for the delay, and I want to thank you very much. I think you're the only kind of people, as compared to like people in New York, could have remained as patient, as kind as you have. Well, thank you very much. Sometimes these things happen. I got this new tune, man. It's really boss. Yeah. It's, wait a minute. It's recorded by Irma Franklin. It's a tune called Peace of My Heart. Yeah! Certamente la registrazione non è di quelle trascendentali, ma il valore storico di questa performance registrata al Winterland di San Francisco il 12 aprile 1968 è di un valore storico notevolissimo. Peace of My Heart, uno dei grandi classici di Janis Joplin, ma ripeto, come avete sentito anche dal presentatore, in questo caso il tutto era accreditato a Big Brothers and the Holding Company, ma essendo l'album uscito postumo, anzi diversi anni dopo la morte di Janis Joplin, esattamente nel 1988, l'album è accreditato a lei con pieno merito, oserei dire. Andiamo al 1979, qui abbiamo un album che si chiama Concert Classics, che fa parte di una serie omonima, una serie che è al limite dell'ufficialità, nel senso che in caso particolare questo che ci ascolteremo sono i Roxy Music, ma anche in altri casi nelle discografie delle bands che sono accreditate di questi Concert Classics in alcune compare, in altre no, insomma è una cosa un po' strana, però rimane il fatto che questa registrazione del 12 aprile 1979 al Rainbow Hall di Denver in Colorado racchiude appieno quella che era l'essenza dei Roxy Music in quegli anni. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Sister Europe, loro sono Roxy Music. I sit at this empty cafe, thinking of you. I remember all those moments lost in wonder that we'll never find. Though the world is my oyster, it's only a shell full of memories. And here by the sea, not far down, cast along a lonely shadow. Now only sorrow, no tomorrow. There's no today for us, and nothing is there for us to share but yesterday. But there always remains my obsession. Through silken waters my gondola glides, and the bridge it sighs. E come spesso mi accade, sono rimasto un po' indietro, nel senso che il brano che ho annunciato, Sister Europe, è un pezzo degli Psychedelic Force. Questo invece era Song for Europe, Roxy Music naturalmente, registrato, come vi dicevo, il 12 aprile del 1979 durante il tour americano che ha visto i Roxy Music passare per Denver, Colorado. Still falls the rain. Gli anni 80 sono rappresentati da una band molto, molto sintomatica di quegli anni, una band molto danzereccia, molto sintetizzata, nel senso con molti sintetizzatori, e che girava intorno a una coppia che risponde il nome di Tom Bailey, il tastierista, e Alan Cooley, voce e tastiere. Erano sposati, finché è durato il matrimonio sono durate anche i Thompson Twins, è questo il nome della band. Poi si sono sciolti e anzi il Tom Bailey ha cambiato il nome della band e anche la musica della band, si sono trasformati in Babel, con una musica molto dub, molto chill out, molto tranquilla, insomma molto diversa da quelle che ci andremo ad ascoltare. Thompson Twins però non erano assolutamente gemelli, non erano neanche fratelli, appunto erano marito e moglie. E il tutto è stato registrato all'Hammersmith Odeon di Londra il 12 aprile del 1982 e fa parte di una cosa un po' particolare, che è un doppio singolo, che è un'antitesi naturalmente in termini, ma certe edizioni particolari dei singoli, sto parlando del vinile, sto parlando dei 7 pollici, certe edizioni molto molto particolari veniva incluso un altro dischetto, un altro 7 pollici spesso registrato dal vivo. Questo è il caso. Il pezzo che ci hanno ascoltare si chiama Make Believe, Thompson Twins, 12 aprile 1982. Whenever I'm not Thank you, good night, see you. Where's my view? Where's my funny kiss? 12 aprile 1996, siamo a Roxy di Atlanta, Georgia, Stati Uniti naturalmente, insieme a una grandissima band che risponde al nome di Gov Mule. Warren Haynes, chitarrista eccelso e cantante, Alan Woody al basso, facevano parte della Allman Brothers Band e iniziarono questa band, Gov Mule, appunto come divertimento, come passatempo quando Allman Brothers Band non erano in tour. E però poi la cosa prese piede e Gov Mule divenne la loro attività principale. Purtroppo Alan Woody ci ha lasciato nell'agosto del 2000, da lì all'inizio si sono succeduti una serie di bassisti, poi sono focalizzati e appunto si è stabilizzato Carl Jorgensen, che è il bassista attuale. Ci siamo ascoltati un cofanetto, cioè un album che fa parte di un cofanetto di 6 CD che racchiude 3 concerti che sono stati registrati in Georgia. Esattamente l'11 ad Athens, il 13 a Macon e il 12 appunto a Roxy di Atlanta. Il tutto è contenuto in questo box bellissimo che si chiama The Georgia Bootleg Box. Ci sono pochissimi pezzi ripetuti e che dire, sono fantastici. Il pezzo in particolare è il loro manifesto, si chiama Mule. Altro grande personaggio di quelli che fa parte della serie che ci hanno lasciato troppo presto, veniva dal Connecticut, ma in giovane età si trasferì a New York City, dove iniziò l'attività concertistica con una band che si chiamava Mink DeVille e poi dopo si è messo in proprio come Willie DeVille. Anche lui, come dicevo, è uno di quelli che è morto troppo presto, nell'agosto del 2009, e per ricordarlo nel 2011 è stato pubblicato questo album, questo dischetto che risponde al nome di Come a Little Bit Closer, viene un po' più vicino. È stato registrato in diverse epoche e in diverse occasioni, in particolare il 12 aprile del 2005 era in concerto al Paradiso di Amsterdam e naturalmente il concerto si concludeva con questa Spanish Troll. I can see the shape you're in. Got your finger on your eyebrow and left hand on your hip. Thinking that you're such a lady killer. Think you're so slick. All that slick. Johnny, he caught a blade and he got on it. Now he's a razor in the wind, and he got a pistol in his pocket. They say the man is mucho loco on the west coast. Ain't no doubt about it. Mr. Sue, tell me, baby, what are we gonna do? She said, take 2 candles, then you burn them out. Make a river boat, set a match and you send it out. Send it out! My radio, Erosita, stay que la Rosita. Oh no. Willie DeVille, 12 aprile 2005, al paradiso di Amsterdam, questa vecchia chiesa sconsacrata che dagli anni 60 è diventata una concert hall ed è una delle più famose in tutto il mondo e ha visto passare decine e decine di musicisti, fra cui appunto il grande Willie DeVille, che concludeva i suoi concerti con questo brano che si chiama Spanish Troll. La conclusione di Città Fujiko Live Club di oggi corrisponde alla conclusione di Recorded Today. Infatti il tempo come sempre è tiranno e dobbiamo concludere. Prima di passare alla presentazione del brano finale vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dai 103.9 MHz di modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko da Bologna. Poi naturalmente c'è anche la app apposita per ascoltarci quando volete, dove volete. Ci sono anche i podcast, ci sono anche i miei fra parentesi, per cui potete tranquillamente andare sul sito, cliccare l'apposito link per quel che riguarda i podcast e andare ad ascoltarvi le vecchie trasmissioni, più o meno vecchie insomma, trasmissioni di Città Fujiko Live Club con tutta la calma e tutta la sonnolenza che volete. No, sto scherzando, i podcast ci sono e vi invito ad andarli ad ascoltare. L'ultima cosa per oggi arriva da una band che si chiama Blackberry Smoke. Loro vengono da Atlanta e sono attivi dal 2000 e qui ci riallacciamo alla prima parte della trasmissione, perché in questi Blackberry Smoke ci sono due fratelli, Richard il bassista e Britt il batterista, che di cognome fanno Turner. Quello che ci andiamo ad ascoltare è un 12 pollici in vinile split, vale a dire su una facciata ci sono i Blackberry Smoke, sull'altra facciata ci sono le Nersk Nerd, registrate in due occasioni diverse. È una cosa un po' particolare perché uscì in occasione del Record Store Day, anzi del Black Friday Record Store Day del 29 novembre del 2013. Fra parentesi, a proposito di Record Store Day, quest'anno sarà fra due settimane, il 22 aprile, ma ne parleremo magari alla prossima trasmissione. Il pezzo che ho scelto per voi da parte di questi Blackberry Smoke è quello che è il loro pezzo probabilmente più famoso, e si chiama Ain't Much Left of Me. Loro sono Blackberry Smoke. Ciao a tutti da Nevio.